Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Circa il 50% del trasporto merci avviene all'interno delle città, dato che non è per nulla sorprendente se pensiamo che lì si trovano i destinatari di gran parte delle merci. Di questo 50%, buona parte è costituito dal traffico di mezzi di trasporto che, provenienti dall'esterno delle mura, entrano in città. Oggi questo traffico è affidato essenzialmente alla gomma. Anche laddove è presente in misura considerevole il trasporto merci ferroviario in alcune regioni d'Italia come la Lombardia, ebbene questo viene comunque percepito come qualcosa che deve lasciare il passo alla gomma alle porte della città. In passato però questo non era vero, i treni merci si spingevano fino a volte anche nelle stazioni secondarie. Ebbene oggi parliamo di una tecnologia sperimentale per il momento che si propone di riportare il treno merci in città con tutti però i crismi della modernità. L'ha sviluppata una società di ingegneria che si chiama iLog, è una società specializzata in soluzioni tecnologiche per l'intermodalità, che ha già messo a punto un sistema che si chiama Metrocargo, che ha la peculiarità di poter scaricare i container dei treni merci quando ancora si trovano sotto la linea elettrica. Sembra una banalità, ma in realtà questo evita di prendere il treno, attaccare una locomotiva che va a gasolio, spostarlo in un'altra area dove non ci sono le linee elettriche, eccetera, eccetera. Allora, di questo nuovo progetto parliamo con Fabio Tarantino, Project Manager della genovese iLog, che sta per Iniziative Logistiche SRL. Buonasera Tarantino. Buonasera a lei. Allora Tarantino, ci parli un po' di questa novità alla quale state lavorando. Sì, noi con la iLog abbiamo realizzato delle attrezzature di carico e scarico che sono sostanzialmente degli allestimenti che vanno montati su dei classici furgoni che noi vediamo oggi nelle nostre città, classici furgoni da 35 quintali, che consentono di caricare e scaricare automaticamente delle microcasse, e queste casse hanno la particolarità di poter essere trasportate anche col treno. D'accordo, quindi insomma è il furgone stesso che si trascina a bordo la cassa. E sì, questo... direttamente. Queste microcasse sostanzialmente sono il cassone che noi vediamo installato sui furgoni. E questo sembra anche qua un po' l'uovo di Colombo, uno dice che c'è di straordinario? Si aprono molte possibilità. Sì, infatti la logica è quella, il modello è quello di poter fare entrare un treno direttamente all'interno della città a partire da degli interporti o da delle piattaforme logistiche collegate alla ferrovia, perché lì le merci sono già presenti e perché lì sono già attive le connessioni sulle medie e lunghe distanze con i luoghi di provenienza delle merci. Insomma, ci sono questi centri di raccolta delle merci che si trovano tipicamente all'esterno delle città, normalmente da lì si entra in città con la gomma. Voi dite perché solo con la gomma? Possiamo entrarci anche col ferro, come dire, riproponendo un modello che in passato aveva anche funzionato. Il grosso vantaggio appunto è quello di attraverso il treno portare avere una capacità più alta e quindi portare più merci all'interno della città, ma direttamente all'interno dell'ultimo miglio, del famoso ultimo miglio di cui tanto si parla in questi ultimi tempi. Un po' come diceva lei prima, si faceva già fino agli anni 70-80, dove dalle stazioni, diciamo, all'interno della città partiva la distribuzione capillare agli esercizi commerciali e alle aree urbane. Il vantaggio può essere appunto quello di far entrare un treno durante la notte, caricato con queste microcasse che sono già consolidate per destinazione finale. Ecco, questo è importante, cioè ogni microcassa è stata caricata in questi centri logistici in modo tale da essere già il giro giusto per il corriere, per esempio, no? Infatti, e col grosso vantaggio che le percorrenze sono ridotte, perché si evita l'ingresso e l'uscita dei furgoni, quindi dalla città. Possono essere decine di chilometri di distanza dal centro logistico. Infatti, e l'effettivo tempo di lavoro del mezzo viene effettivamente dedicato per l'attività di consegna. Questa riduzione di percorrenza diventerebbe anche un vantaggio per i mezzi ecocompatibili, perché ad esempio i mezzi elettrici, che tutti sanno hanno una sono caratterizzati da una scarsa autonomia di percorrenza, certo, potrebbero essere utilizzati. Un altro vantaggio è che il treno merci in pratica con queste metodologia semplificata di carico scarico eccetera eccetera fa un po' da magazzino, ma da un punto di vista tecnico, diciamo, c'è la possibilità di portare dei treni merci dentro centro, nelle città? Cioè, questo è compatibile per esempio col trasporto di persone, perché uno dei motivi per cui, diciamo, è scomparso il trasporto merci dall'interno delle mura cittadine è che si è detto, beh, insomma, dobbiamo scegliere fra merci e persone e diamo la priorità al trasporto di persone. Un'altra cosa che si sente dire spesso è che non ci sono le aree adeguate per lasciarci i treni merci, per parcheggiarli, ecco, diciamo. Mi lasci dire che il nostro modello consente di scaricare, quindi, queste microcasse direttamente dal carro ferroviario al mezzo compatibile direttamente sul dal binario, quindi occorrono pochissimi metri di spazio lungo un singolo binario. A fianco del binario per fare questo trasferimento. E di aree ferroviarie poco utilizzate, oppure dei binari poco utilizzati anche in stazioni o scali dismessi, ce ne sono molte in tutte le principali città italiane, quindi questo non è un problema di spazio. Per quanto riguarda il discorso delle tracce, o meglio della convivenza tra il trasporto merci e il trasporto passeggeri, come dicevo prima, il fatto di poter entrare di notte col treno e parcheggiarlo quindi all'interno di un binario, quindi il treno diventa sostanzialmente un magazzino temporaneo, come si diceva, questo consente appunto di non andare a causare disagi al traffico passeggeri, perché i passeggeri di notte nelle città, diciamo, ci sono tracce, ecco, disponibili a livello ferroviario. Mi fa qualche esempio? Sì, il modello potrebbe essere applicabile, come dicevamo prima, in ogni città che possa essere servita da un interporto. Alcuni esempi potrebbero essere Firenze con l'interporto di Prato, Genova con l'interporto di Rivalta Scrivia, Torino con l'interporto di Orbassano, oppure Milano con l'interporto Cime di Novara o addirittura con i mercati generali. Grazie Tarantino, in bocca al lupo allora per questo vostro lavoro sperimentale. Grazie, arrivederci. Bene, ci fermiamo qui, appuntamento a domani.